sono rincoglioniti, non ce la fanno a salire neanche a farlo. E da cominciare a rompere le palle, soprattutto quando non c'è ascensore, cominciano a dire, Cristiano, non ordini più, bombardi, poi discute, è troppo pesante. Ecco, succede quello, succede, perché stanno sempre la bottiglia in mano, hai capito? Perché io te ne dico uno, tu un giorno in questi giorni passa in via Napoli, vedi c'è il circolo e vedi, te ne faccio uno di esempio, e vedi là la cosa, la moto lì parcheggiata, cioè una roba plastica. Cioè, Lo so, non è un altro brutto vizio. Gianni, e tu quando è che sei? Da quando è a quant'è che sei in fede? Sono in fede da lunedì. Fino a domenica? No, sono da lunedì in fede, 2 settimane. Ah? E al 21. Però, già, ma sono con le stive, dopodiché nuda. E io. Tu invece quando sei in fede? Rosso e poi lavoro tutto l'anno. Non ho capito che ho copiato, da? 15 giorni ad agosto e poi lavoro tutto l'anno, non ho più fede, non c'ho più niente. Ma cosa ti fai i primi 15? Sì, adesso vediamo in che settimana è di agosto, poi prendo le vostre e poi basta. Già troppe dicono, e lì bisogna produrre lì, non siamo al supermercato. No? Di Ruggero, gala, facciamo vedere se è rientrato Luca. Luca, là c'è il computer, Luca, separato. Non è facile andare dentro lì, soprattutto in questo periodo è terribile proprio, cazzo, ci sono soldi, no? Un lavoro in questo periodo è facile, me ne rendo conto io che sono in piazza c'è la piazza piena e tu non guadagni, evidentemente un motivo c'è. Gianni, ricordati di chiederti quella cosa, mi raccomando. Sto organizzando tutto e anche adesso sto iniziando a mandare l'email, quindi fa assolutamente piacere, ne faremo almeno 2 pilota per vedere se sta andando la cosa, dopodiché se può andare la cosa, dopodiché iniziamo. Vi devo lasciare un attimino, ci sentiamo fra 5 minuti esatti, dai, che sto finendo di fare quel lavoro che ho mollato un attimino.